Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Deborah, come stai? Buongiorno Mauro, bene come al solito, compatibilmente con questi momenti che viviamo, andiamo avanti. Siamo sempre qua. Hai visto che insieme a Danilo Di Trani, oggi badante di prossimità, a proposito Danilo, forza sì. Inter, non cediamo alle malignità e alle cose sbagliate che sostiene Alessandro Milan, e insieme dicevo cosa a Danilo... ha detto che me lo sono perso? Ma niente, ha detto come al solito che Danilo Di Trani tiene al Milan, che è una falsità totale, assoluta. Non ci fossero già abbastanza fake news in questo periodo? I titoli della Juventus vanno molto bene perché questo grande gesto, appunto, i giocatori si sono tagliati lo stipendio e quindi il mercato premia. Una delle poche società questa mattina che ha piazza affari vanno bene, visto che è un'altra giornata abbastanza complicata. E ne parliamo tra poco perché oggi è lunedì, certo. E quindi come sempre faremo Meteo Borsa. Tra l'altro inauguriamo anche una sorta di nuova rubrica, giusto Deborah? Esatto, ne sono molto contenta perché abbiamo radunato un po' tutto il mondo dei consulenti finanziari che in questo periodo chiaramente vanno in soccorso ai problemi e, dei risparmiatori che sono un po' preoccupati perché cercano di capire non tanto come andranno i propri risparmi, ma cercano di capire se dovranno utilizzarne parte per fronteggiare questa fase, e quindi in tantissimi ci hanno mandato i loro messaggi e oggi cominceremo appunto a mettere a disposizione il messaggio dei consulenti a disposizione di tutti i nostri ascoltatori. Però come prima notizia direi che dobbiamo raccontare questa che è molto importante perché continuano a scriverci anche molti ascoltatori che chiedono di capire come potranno e se potranno sospendere il rimborso del mutuo, e soprattutto diciamo questo bisogno adesso ce l'hanno le partite IVA e i lavoratori autonomi. Abbiamo finalmente il provvedimento in gazzetta, Mauro, e siccome tu hai la gazzetta, dici un po' le esatto, novità. Esatto, abbiamo il provvedimento, cioè ti ricordi, cara Deborah, che per l'estensione, per così dire, del fondo Gasparrini, cioè il fondo sì. Perché consente di sospendere i mutui per la prima casa, serviva o sembrava servire, in base al decreto legge 18, un decreto. Allora, il decreto c'è. Telchi, come si dice a Milano, Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 25 marzo 2020, fondo di solidarietà per mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del DL numero 18. Allora, c'è il decreto, quindi, care banche, ve lo diciamo con garbo, care banche, adesso c'è il decreto, abbiamo il decreto legge in vigore. Sapete come funziona il fondo e diciamo ecco. Che sarebbe proprio il tempo di dare corso alle sospensioni che vi verranno chieste. Non ho sentito Mauro parlare di regolamenti attuativi, di provvedimenti attuativi, di circolari che devono essere emanate, per cui mi pare di capire che pronti via. No, è proprio così Deborah, hai capito benissimo, ecco. Cioè l'operatività del fondo Gasparrini, come sappiamo, è stata estesa perché ci sono appunto accolti i lavoratori dipendenti che stanno in cassa integrazione, ma anche i lavoratori autonomi che abbiano subito calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato ultimo trimestre del 2019. Poi non è più richiesta per tutte le ipotesi di accesso al fondo la presentazione dell'ISEE, dell'indicatore a situazione economica equivalente. È stato previsto che il fondo sospensione delle rate dei mutui per la prima casa, sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Cosa si deve fare? Fare domanda alla banca che ha concesso il mutuo, che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione appunto di questa documentazione, che è, come abbiamo detto, molto molto scarna. Ecco, il decreto c'è. È disponibile da oggi, Mauro, sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per cui se la banca vi dice non abbiamo i moduli, allora presentatevi voi con i moduli che avete scaricato dal sito del Ministero. Anzi, fateci sapere se li trovate già, perché appunto da stamattina, da quello che ci risulta, dovrebbero essere disponibili. Queste peraltro sono le prime informazioni che diamo, Mauro, ma promettiamo anche ai nostri ascoltatori che torneremo su questo argomento con una puntata apposita e che abbiamo anche noi degli esperti e dei consulenti che ci danno una mano nel caso in cui qualcosa non vi sia chiaro o nel caso in cui ancora qualche istituto di credito faccia un po' melina, come si dice, raccontatecelo e noi li sollecitiamo in senso contrario. Esattamente, già abbiamo avuto modo la settimana scorsa appunto di intervenire, di stigmatizzare alcuni comportamenti per così dire dilatori, nessuno si offenda ma è così, e allora cerchiamo adesso di entrare nella settimana, come direbbe Alessandro Milan, decisiva. Quindi decisiva vuol dire decisiva per la sospensione, accogliere le richieste di sospensione dei mutui, già è tutto operativo per le richieste da parte delle piccole e medie imprese. Oggi poi ci occupiamo anche delle scadenze fiscali nella seconda parte della nostra trasmissione. Ricordo i numeri 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666. Faccio una raccomandazione di tipo generale, cerchiamo ogni giorno, come sapete ormai da settimane, di approfondire uno dei temi di soprattutto soccorso e supporto alle nostre tasche, alle nostre condizioni in questo momento. Oggi non parliamo naturalmente di oggi parliamo di fisco, non parliamo allora delle varie indennità dell'INPS, ma lo faremo al più presto, ci torniamo domani, torniamo mercoledì, insomma tutti i giorni, Deborah, cerchiamo di avere un approfondimento per quanto riguarda le provvidenze che sono state varate e verranno varate a seguito dell'emergenza coronavirus. Molto bene, allora direi di partire con il consueto sguardo sui mercati finanziari. Vediamo un po' cosa ci aspetta questa settimana. Meteo Borsa. Intanto diamo subito il benvenuto e collegato telefonicamente con noi a Marco Piersimoni, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management. Buongiorno Piersimoni e grazie di essere tornato a trovarci. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, io scatto la consueta Polaroid sull'andamento dei mercati finanziari in questo momento. Abbiamo avuto già una partenza all'insegna della volatilità. Le borse europee, dopo il netto calo di nuovo di venerdì, erano partite bene, poi hanno girato tutte al ribasso e adesso provano di nuovo a risalire la china, mantenendosi però ancora in ritorno negativo. Meno 0,38% Milano, meno 0,48%. Deborah, dobbiamo purtroppo interromperti perché il collegamento sta peggiorando in modo non più sopportabile, allora ti richiamiamo e do io subito la parola a Marco Piersimoni, come ha detto Deborah, Senior Investment Management di Pictet Asset Management. Piersimoni, che settimana ci aspetta? Ci aspetta un'altra settimana sulle montagne russe. Perché? Perché i mercati si muovono essenzialmente su due o tre spunti. Il primo ovviamente è l'andamento dei contagi di questa epidemia a livello italiano, europeo e ormai soprattutto americano. Il secondo sono le manovre di reazione da parte delle politiche economiche, per cui governi e banche centrali. Su questo secondo fronte, manovre di reazione di politiche economiche, il grosso è fatto, ossia molte buone notizie sono già arrivate, per cui i mercati non si muoveranno più tanto come hanno fatto settimana scorsa su questo, ma guarderanno di più il primo fattore, per cui occhio davvero ai numeri dei contagi europei ed americani. Questo sarà, diciamo, il tema la dominante, verrebbe da dire, in termini musicali, che orienterà tutto il percorso. Deborah, sei tornata tra noi? Sono ritornata, abbiamo ripristinato il collegamento e speriamo che regga. Allora, un tema importante di questa mattina è quello bancario, perché, come gli ascoltatori ricorderanno, la Banca Centrale Europea la scorsa settimana ha raccomandato alle banche di tutto il vecchio continente di deliberare la sospensione dell'erogazione delle cedole, quindi dei dividendi, e dei piani di buyback, di riacquisto di azioni proprie, e immediatamente questa mattina alcune banche italiane ed anche europee si sono allineate a queste raccomandazioni. Qualcuna non lo ha fatto, perché abbiamo appreso poco fa che per esempio UBS ha detto di aver confermato il dividendo, la cedola agli azionisti, perché ha detto la raccomandazione della BCE è tale, non è una proibizione. Invece per quello che riguarda l'Italia hanno fatto sapere di essersi allineate Unicredit, Generali, Banca Mediolanum, Intesa, ne discute domani nel Consiglio di Amministrazione, ed è una notizia importante perché i titoli che si sono appunto allineati stamattina in borsa non vanno tanto bene. Allora, che significato ha, Pier Simoni, tutto questo? Le banche sono effettivamente sempre all'epicentro di molti dei problemi, sia quando è stata una crisi finanziaria nel 2008 che ora che si tratta di una crisi vera e propria economica a tutto campo. Allora, la Banca Centrale Europea ha dato una raccomandazione che non è vincolante ma che gli assomiglia molto, e questo che cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente la capacità delle banche di distribuire dividendi, innanzitutto quella di generare utili, è ovviamente molto danneggiata dallo stato dell'economia generale. Dopodiché la capacità di distribuire dividendi è fortemente inficiata per quest'anno, e io direi probabilmente anche per almeno metà dell'anno prossimo. Questo che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che tra il fatto che le banche generano meno utili, possono distribuire meno dividendi, avranno certamente dei limiti al riacquisto di azioni proprie, le proprie azioni, ossia le azioni delle banche stesse, non sembrano godere di fortune altamente giocabili o altamente spendibili. D'altro canto però il danno fatto è abbastanza importante, nel senso che parliamo di titoli che si sono dimezzati, che si sono tranquillamente dimezzati, per cui io credo che il danno che i titoli hanno già visto sia importante. Probabilmente occorre ancora digerire qualche cattiva notizia, ma dopodiché il sistema finanziario nel suo complesso non è destinato ad un collasso. Bene, meno male. Intanto anche lo spread BTP e Bund, Mauro, stamattina, tanto per non farci mancare nulla, ha rialzato la testa, e per quello che riguarda appunto l'Italia in rapporto alla Germania siamo a 195 punti base, e per completare il quadro abbiamo anche il petrolio che continua a scivolare. Questa mattina il greggio di riferimento americano ha sperimentato un livello sotto i $20 al barile, il Brent del Mare del Nord è intorno ai 23. Anche questo, Pier Simoni, è un tema che continua a preoccupare un po' la scena finanziaria, perché naturalmente anche questo è un test importante per valutare lo stato di salute economico globale, con la domanda che crolla, i trasporti paralizzati e i paesi produttori che tra l'altro non si sentono neanche investiti di un senso di responsabilità di quantomeno sospendere questa guerra dei prezzi. Ecco, quanto è importante anche questo fattore in questo momento? Importantissimo. I due protagonisti della guerra dei prezzi, Russia e Arabia Saudita, soprattutto la Russia, stanno giocando una battaglia di città. Abbiamo perduto Pier Simoni, forse allora adesso lo ricontattiamo. Siamo, diciamo, all'analisi delle materie prime, giusto Deborah? Perché è un po' cercare di decifrare il futuro dei mercati, uno guarda le materie prime. È tornato, abbiamo recuperato Pier Simoni. Perfetto. Prego. Eccomi qua, scusatemi, questo è il mondo in cui viviamo, ma ci abituiamo a tutto. E solitamente in un mondo normale, quando c'è un crollo del prezzo del petrolio è molto bene, nel senso che i consumatori hanno più soldi per spendere, spendono meno in benzina, possono comprare di più del resto. In realtà, visto che siamo tutti chiusi in casa, più del resto non possiamo comprarlo, per cui il prezzo del petrolio non fa bene come al solito tramite il canale normale, ossia maggiore disponibilità di reddito, mentre fa male tramite il canale finanziario. In primo, mette sotto stress i bilanci delle banche che hanno prestato soldi alle aziende petrolifere. Questo è soprattutto vero in America, ma in parte anche in Europa. In secondo luogo, i paesi produttori di petrolio, soprattutto i paesi del Golfo, che sono grandi detentori di titoli finanziari, in seguito al calo delle quotazioni del petrolio sono costretti a vendere questi titoli finanziari. Inoltre, il prezzo del petrolio che si schianta fa schiantare con essa anche l'inflazione, che anche questo sarebbe una buona notizia di solito, ma l'inflazione che viene giù in realtà cosa fa? Fa sì che scendano i tassi di interesse, e questo per le banche torna ad essere un doppio problema. Per cui cosa succede? Succede che in termini calcistici di fatto la discesa del prezzo del petrolio in questo contesto è veramente un 3-1 dal punto di vista sfavorevole, per cui non è necessariamente una buona notizia. Ma senta Pier Simoni, le faccio un'ultima domanda. Ma se la Commissione europea e il Parlamento e insomma tutti gli organismi della UE acconsentissero alle richieste di Italia, Francia, Spagna che dicono indebitamento illimitato per favore e senza condizioni, perché questa è una pandemia, non è una crisi che qualcuno si è speso troppo e è andato a gozzovigliare al bar. Ecco, questo non potrebbe dare un po' di sostegno ai mercati? Ma penso, ci credo pochissimo, prima cosa. Ah, secondo, ecco, ci credo pochissimo. Però il fatto che ci credo pochissimo vuol dire che se dovesse arrivare sarebbe un'ottima notizia, no? Come sempre. Le cose a cui credi poco quando arrivano, almeno questo è quello che mi dice sempre mia moglie, quando faccio qualcosa di bello, siccome non si aspetta mai niente, rimane sempre molto stupita. Anche la mia. Però, dice sempre così, prego. Ecco, per cui se dovesse arrivare qualcosa di questo tipo, di cui, a cui io credo molto poco, sarebbe una buona notizia, ma soprattutto per il mercato degli spread. Dopodiché, se mi permetto solo una notazione, che è questa, ossia, non è che si chiede una possibilità di indebitarsi senza nessun limite, ma si chiede una responsabilità congiunta sul debito. Questa è la grossa differenza che Germania e Olanda rifiutano, ma in tutto questo c'è la solita supplente, molto efficace, meglio della maestra, che è la Banca Centrale Europea, la quale di fatto sta agendo in maniera illimitata, ossia l'ultimo programma di acquisti dopo la svalvolata di Lagarde di una quindicina di giorni fa. L'ultimo programma di acquisti è in teoria di 750 miliardi, ma potenzialmente illimitato. Per cui sarebbe sì una buona notizia, ma non il mercato non è che ci crede tanto e c'è la supplenza che è molto, ho compreso, molto forte. Non muterebbe granché. Deborah, come vogliamo concludere a questo punto? Concludo salutando Marco Piersimoni, ringraziandolo, tornerà sicuramente con noi prossimamente. I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari direi che mantengo ancora un po' di suspense, li diamo fra 7-8 minuti nel nostro collegamento delle 11.30. Piersimoni, grazie per essere stato con noi, a presto. A presto, buona giornata. Buona giornata, buona settimana naturalmente, perché anche gli operatori finanziari non è che dormano proprio sonni tranquilli. Io direi di far partire subito la nostra rubrichina che ci siamo inventati la settimana scorsa, Mauro, e alla quale hanno aderito tantissimi consulenti finanziari, li abbiamo chiamati a raccolta, un po' perché loro ci hanno detto: guardate, se avete bisogno in questo momento per rassicurare i risparmiatori, noi ci siamo, quindi siamo a disposizione con le nostre professionalità. E allora, per non mortificare nessuno, siccome il nostro palinsesto questo è ovviamente limitato e non possiamo avere tutto il tempo che ci piacerebbe avere, a me e Mauro, per ovviamente accompagnare ascoltatori, contribuenti, risparmiatori e cittadini in questa difficilissima fase, abbiamo chiesto loro: fateci una pillolina di un minuto e mezzo con i vostri consigli per affrontare al meglio questo momento, e in tanti, come vi dicevo, hanno aderito. Allora Mauro, noi direi che possiamo cominciare subito con l'esordio di quest'oggi. In questa speciale veste di Investire Informati abbiamo una sigla consolidata e abbiamo continuato ad utilizzare questa per questo percorso che inizia oggi, e il primo consulente che vogliamo ascoltare è Enrico Mantovanelli, consulente di Banca Fideuram di Verona. Investire Informati. Ciao Deborah, ciao Mauro, i radioascoltatori. E da parte mia il consiglio che mi sento di dare in questo momento ai risparmiatori è di affidarsi completamente al proprio consulente finanziario, condividendo con lui le strategie, le scelte, le decisioni nel rispetto del proprio profilo finanziario e dei propri obiettivi. E se è stata correttamente impostata la pianificazione del portafoglio, il risparmiatore ha in questo momento liquidità per far fronte ai propri impegni e cassetti dai quali attingere per il raggiungimento dei propri obiettivi. Per quelle persone invece che non hanno pianificato correttamente, che hanno fatto una gestione del proprio risparmio senza obiettivi, mettendo tutto in un calderone senza sapere magari cosa si è fatto, il consiglio è quello di prendere in mano la situazione e iniziare un passettino alla volta ad incontrare il consulente o un nuovo consulente e con lui condividere strategie e pianificazione, perché in questo momento non ci si può assolutamente fare del male e andare a dilapidare il patrimonio magari che in tanti anni si è accantonato con dei sacrifici. Finanza comportamentale, quindi risparmiatori, se il vostro consulente non ve la spiega, iniziate a guardarvi dei tutorial, trovate di tutto su internet, YouTube, Facebook, eccetera, perché in questo momento le scelte devono essere assolutamente razionali. Un saluto, una buona giornata a tutti e anche questa volta ce la faremo. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. giornale radio. Le casse dei comuni, esatto, brava, esatto. Deborah, perché è proprio questa la prima notizia che diamo. Allora, arriveranno entro domani, martedì 31 marzo, i 400 milioni di euro che già hanno alimentato parecchie polemiche. Sono troppo pochi, sono abbastanza, sono solo i primi, che succederà, lo staremo a vedere. Intanto abbiamo questi primi 400 milioni che vanno ai comuni per finanziare i buoni spesa e per fronteggiare l'emergenza alimentare, direi per cercare di scongiurare l'emergenza alimentare. C'è stata un'ordinanza della Protezione Civile, come sappiamo è stato annunciato proprio dal Presidente del Consiglio nel pomeriggio di sabato, e quindi l'80% del fondo sarà distribuito sulla base della popolazione, l'altro 20% si concentrerà nelle zone più povere in base al parametro che si può stabilire vedendo la distanza tra reddito pro capite del comune e reddito medio nazionale. Allora, domattina non saranno materialmente distribuibili questi buoni, i soldi arriveranno entro martedì e poi i sindaci e i servizi sociali dovranno lavorare per individuare i destinatari, quindi serve qualche giorno di pazienza, servirà probabilmente questa settimana per mettere a punto l'erogazione materiale di questi buoni spesa. Si calcola che non è stato fissato il valore del buono, ma dovrebbe avvicinarsi intorno ai 400 euro, è una stima, perché prima si era parlato di una stima di uno stanziamento di 300 milioni per 300 euro di buono, qui dovremmo fare una sorta di equivalenza, 400 milioni uguale 400 euro di buono, ripeto, non da domani. Ci vuole che i sindaci, i servizi sociali dei comuni si attivino per individuare poi i destinatari. Deborah. Anche se riteniamo che i sindaci e il territorio, soprattutto i sindaci dei piccoli comuni conoscano molto bene le situazioni di difficoltà, e secondo noi non appena sarà tutto operativo non tarderanno a sostenere queste famiglie in questo stato di bisogno. Peraltro anche la piccola e la grande distribuzione si sono già attivate per dare il loro contributo agli enti locali che in questo periodo dovranno compiere questa azione di sostegno sul territorio. Per esempio la FIDA, Confcommercio, la Federazione dei Dettaglianti Alimentari, ha fatto sapere appunto che raccogliendo l'invito pervenuto dal Presidente del Consiglio Conte di aggiungere uno sconto ai buoni spesa per famiglie in difficoltà, inviterà i propri associati ad applicarlo in autonomia, mentre la grande distribuzione attraverso l'organizzazione di rappresentanza Federdistribuzione ha fatto sapere che contribuirà al sostegno delle persone più bisognose aggiungendo uno sconto ai buoni spesa per le famiglie che hanno questo bisogno, e quindi ci sembrava appunto interessante segnalarlo. Mauro, due circolari IMSS qua, esatto, ma sei contento? Guarda quante ce ne sono. Ah, guarda, qui non ci si annoia mai con la parte attuativa, ma meno male. Guarda, voglio dire una cosa, sai che noi siamo spesso critici, giustamente, e ce ne danno motivo, nei confronti della burocrazia, che è diventata una parolaccia, ma in realtà non dovrebbe esserlo, cioè sarebbe semplicemente appunto il potere degli uffici di disciplinare la corretta applicazione delle norme. Ebbene, l'IMSS sta varando molte istruzioni ai suoi uffici per assicurare una veloce erogazione dei vari sostegni che sono stati diffusi. Ce ne occuperemo molto già a partire dalla giornata di domani, la puntata di domani, e comunque ce ne stiamo occupando in continuo anche ad esempio con il forum che trovate, il forum dell'Esperto Risponde, ancora accessibile sul sito del Sole 24 Ore. L'indirizzo è www.ilsole24ore.com poi slash, cioè la sbarretta, forum coronavirus. Ci sono centinaia di risposte già fornite dai nostri esperti che indirizzano, e naturalmente ci sono le circolari dell'INPS che sono state varate per le varie misure di sostegno, dal congedo, dalle prestazioni per le famiglie e i lavoratori, il sostegno, i congedi, il bonus per la babysitter e così via. Qualcuno mi chiede, Deborah, via WhatsApp, ma la guida sullo smart working che è stata data con il Sole 24 Ore in edicola sabato, se uno se l'è persa, allora può darsi che qualche edicola ancora ce l'abbia, però ricordo che per gli abbonati questo tipo di prodotti resta disponibile in formato digitale sul nostro sito. Trovate tutte le informazioni per abbonarvi proprio su www.ilsole24ore.com. A te. E sì, l'ultima cosa che dobbiamo fare è naturalmente ascoltare il deal a due di denari che abbiamo anche oggi. L'ultima notizia che volevo ricordare è quella che riguarda il lavoro domestico, perché continuano a scriverci tanti ascoltatori che hanno alle proprie dipendenze collaboratori familiari, badanti, collaboratori domestici che in questo momento non possono far lavorare per le ragioni che conosciamo e si chiedono se in qualche maniera anche queste figure professionali hanno delle provvidenze, dei sostegni, degli aiuti in questo momento in cui non percepiranno lo stipendio, perché molti datori di lavoro hanno detto abbiamo dato loro tutte le ferie che erano disponibili ma adesso non li possiamo più aiutare. Credo che anche per questa categoria ci siano allo studio delle iniziative come il cosiddetto reddito di emergenza, il reddito di ultima istanza, e quindi a breve vi daremo notizia anche rispetto a quello che è previsto per questi lavoratori, perché l'idea è di non lasciar nessuno senza sostegno economico, anche se dovrà durare solamente un mese, ma nessuno dovrà essere lasciato appunto da solo. E quindi Mauro, mi pare che le ultime notizie siano queste. Adesso io non so se abbiamo qualche cosa di più attuale, ma mi pare che anche per la categoria dei collaboratori familiari qualcosa dovrà venire fuori. Stiamo giusto? Aspettando che nel corso della conversione in legge del decreto legge 18 si intervenga, però al momento la situazione è quella che tu hai riassunto. Attenzione al phishing, attenzione alle truffe, attenzione ai falsi volantini, è stato detto anche in televisione del Ministero dell'Interno, è falso, ci sono dei volantini con il logo del Viminale, invita i non residenti a lasciare le abitazioni, rientrare nel domicilio, eccetera, è tutto falso. Vengono anche affissi dei manifesti all'ingresso delle case, sembrano del Ministero dell'Interno ma non lo sono, dicendo che verranno delle persone a controllare. Il Ministero dell'Interno non sta facendo niente del genere, i controlli avvengono per strada per giustificare gli spostamenti, mi raccomando. E adesso dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno, io ho mio figlio che studia all'Università di Bologna e lavora in una palestra. Adesso purtroppo l'università è ferma e la palestra dove lavorava è chiusa. Quindi lui deve provvedere a pagare l'affitto, eccetera, eccetera. In questo momento c'è la possibilità per farlo tornare in Abruzzo qui da noi? Grazie. Allora, tutte queste risposte vi rimando al forum dell'esperto risponde del Sole 24 Ore e risponderemo anche nei giorni a venire. Adesso sentiamo come vanno le borse. Questi due, la Rosciani e l'altro, lì tutto con sta pergamena, con sta cacchela. Due di denari. Buongiorno, a onor del vero bisogna dire che tantissimi sindaci, soprattutto delle piccole comunità, dei piccoli paesi, si sono già mossi da più di 10 giorni per far sì che indigenti e famiglie meno abbienti possano avere comunque quelli che oggi chiamiamo i pacchi alimentari. Grazie Massimo da Varese. Grazie a te, grazie a lei Massimo da Varese, perché questo risponde anche a diversi WhatsApp che ci hanno chiesto ma a chi vanno poi questi buoni spesa, questi fondi per l'emergenza, insomma saranno individuati appunto dai sindaci, dai servizi sociali, dei comuni proprio tra le fasce più bisognose. È evidente che questa sarà la destinazione, quindi non c'è una indicazione puntuale o una indicazione centrale su questa materia, vengono affidati appunto ai comuni. Ma adesso è il tempo, cara Debora, di parlare di fisco, perché è vero che c'è una sospensione, però insomma ci sono delle cose sospese ma non tutte le cose sono sospese, insomma bisogna capirci dentro un po' di più. E allora noi abbiamo scomodato un'esperta di valore mondiale, già è stata ospite in altre occasioni qui a Due di Denari, allora la dottoressa Laura Ambrosi, che è partner del Dipartimento Contenzioso di Legalitax, è un'esperta del Sole 24 Ore, i lettori, specialmente le pagine Norme e Tributi, conoscono molto bene la sua firma. Benvenuta a Due di Denari. Grazie, buongiorno. Allora, cominciamo dalle cose facili, quelle che ho capito persino io, dottoressa Ambrosi. Allora, c'è una sospensione sostanziale di tutti gli adempimenti fino a fine di maggio. Però sembra di essere nel fumetto di Asterix, cioè tutti? No, non proprio tutti, perché alcuni invece rimangono. Possiamo ricordare che cosa non è stato sospeso? Prego. Allora, Sì, grazie. Dunque, gli adempimenti sono sospesi quasi tutti, diciamo così, tranne alcuni particolari che potrebbero essere ad esempio l'invio delle certificazioni uniche che scade entro il 31 di marzo. Quindi domani. Esatto, piuttosto che tutti gli adempimenti diversi dai pagamenti, per i quali sono state introdotte delle norme specifiche, che in realtà non sono riuscite evidentemente a coprire una platea così, così vasta di contribuenti e hanno in realtà creato una serie di dubbi e perplessità nell'applicazione di questa sospensione. Sicuramente quello che interessa di più riguarda i pagamenti. Sì. Allora, c'è stata con il decreto legge 18 c'è stata un rinvio generalizzato dal 16 al 20 marzo. Perché generalizzato? Perché ha riguardato sostanzialmente tutti. Però si tratta di un rinvio di 4 giorni, che in realtà quindi non è che aiuta particolarmente il momento difficile, quindi il contribuente in questo momento difficile. Hanno poi fatto una serie di sospensioni un po' più specifiche, e tra queste troviamo una che riguarda alcune categorie di contribuenti a seconda quindi della tipologia di attività, non so, ad esempio le attività turistiche piuttosto che le agenzie viaggi, le palestre, le piscine, i cinema, le discoteche, cioè queste attività di carattere turistico ricettivo, quelle per che sono chiuse senza possibilità di incasso alcuno, diciamo la verità, perché diciamo una discoteca esatto. non ha possibilità di incasso. Prego. Esatto. Per queste hanno sospeso i pagamenti di ritenute dipendenti, IVA del mese di marzo e contributi fino al 31 di maggio. Questo pagamento dovrà essere effettuato entro fine giugno o in un'unica soluzione oppure in 5 rate mensili. C'è poi stata un'altra regola sempre specifica legata ai pagamenti, e quindi per tutte le imprese, quindi a prescindere dalla tipologia di attività, con ricavi inferiori ai 2 milioni, hanno sospeso sempre i pagamenti legati al mese di marzo per IVA, ritenute dipendenti e contributi, e fanno eccezione al limite dei 2 milioni le imprese che hanno sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Per queste, a prescindere dal volume d'affari, la sospensione vale. Ricordo, è solo la sospensione dei debiti relativi che scadevano nel mese di marzo, quindi dall'8 marzo al 31 di marzo. E con vuol questo dire che, ad esempio, l'IVA che scadrà il prossimo 16 aprile attualmente non è sospesa. Poi è probabile che faranno ancora qualcosa, però attualmente non è sospesa. Benissimo, cioè benissimo è un modo di dire, dottoressa Ambrosi, non lo prenda. Certo. Benissimo nel senso che fino a qui, cosa dici Deborah? Stiamo riuscendo sì. a seguire quanto ci sta spiegando sì. dottoressa Ambrosi, prego. Guarda, tra l'altro io volevo chiedere una cosa relativamente alle certificazioni uniche, perché dottoressa Ambrosi, come lei sa, le aziende le mandano, chiaramente se io sono una dipendente del Sole 24 Ore la ottengo facilmente dal mio datore di lavoro. Se però nel corso dell'anno dovessi aver fatto lavori per altre società, queste società mi inviano la certificazione unica relativa ai pagamenti fatti lo scorso anno o tramite raccomandata, e quindi devo andare alla posta. Molti, ancora non tutti, diciamo, hanno capito che in questo periodo dovrebbero velocizzare le operazioni attraverso un invio con una mail. Ecco, nel caso in cui non si possa recuperare questa documentazione, perché è auspicabile, come dire, raccomandabile in questo periodo circolare il meno possibile, quindi stare alla posta 3 ore una mattina con tutta la fila che sarebbe necessario fare anche sì. in questo momento non è proprio il massimo. Possiamo come dire anche avere un pochino chiaramente di pazienza, ma che cosa si fa? Si chiama l'azienda in questione, no, allora, si dice mandami una mail e la posta sta lì. Certo, se l'azienda sì. la certificazione unica l'ha elaborata e in qualche modo l'ha inviata, la si trova nel cassetto fiscale, quindi anche se io non riesco a recarmi in posta per ritirare la raccomandata che mi è stata mandata via carta, dovrei poterla recuperare nel mio cassetto fiscale. Il problema Ottimo. Di cui parlavamo prima dell'adempimento è che le aziende devono fare questo adempimento e per ora non sembra né sospeso né prorogato né rinviato, quindi entro il 31 marzo andrebbe fatto. È vero, e questo di carattere un po' più generale, anche se in realtà l'hanno già più o meno anticipato, poi bisognerà vedere se lo adotteranno, hanno detto che non applicheranno sanzioni per chi in questo periodo insomma ha commesso qualche irregolarità. È vero che nel nostro ordinamento, a prescindere che poi lo confermeranno o meno, si potrebbe sempre sostenere che esiste una norma che prevede la non applicabilità di sanzioni nell'ipotesi di innanzitutto eventi, chiamiamoli straordinari, causati da forza maggiore, quindi io non ho potuto fare quell'adempimento, quel pagamento a causa di forza maggiore. Che cos'è poi la forza maggiore? Vabbè, è discutibile, quindi probabilmente dovrà essere una situazione al vaglio di un giudice e, sperando che si ricordino tutti il periodo che abbiamo passato, dovrebbe essere facilmente passabile, quindi il discorso del non sanzionarmi il mio inadempimento. In ogni caso è auspicabile che il legislatore in un qualche modo preveda che, anche vista la confusione del decreto, escluda la sanzionabilità di qualunque omissione effettuata dai contribuenti, perché purtroppo ad esempio l'ipotesi delle certificazioni uniche in molte ipotesi non dipende solo dall'azienda, ma anche dal commercialista dell'azienda, che potrebbe avere lo studio chiuso. In queste ipotesi quindi è un inadempimento a catena, il commercialista non lo fa per l'azienda, l'azienda quindi non adempie e via discorrendo. Però d'altra parte, se non li hanno sospesi, purtroppo bisogna fare i conti con quello che abbiamo. C'è un'altra cosa che non è stata sospesa, che sono i famosi pagamenti derivanti da avvisi bonari. Adesso abbiamo in realtà un minuto, perché poi dobbiamo dare le informazioni sulla viabilità, ma mi conferma, dottoressa Ambrosi, è così, cioè i cosiddetti avvisi bonari non sono le cartelle esattoriali, quelle che ci manda Agenzia Entrate Riscossione. Gli avvisi bonari non sono stati sospesi, perché hanno sospeso in modo esplicito ed espresso tutto ciò che è già stato affidato a Agenzia delle Entrate e Riscossione, quindi per capirci la cartella di pagamento. Esatto. Invece l'avviso bonario, che è in una fase precedente, cioè quindi è solo una comunicazione normalmente che invia l'Agenzia delle Entrate prima di iscriverla a ruolo, quindi prima che vada all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, questa non è stata espressamente sospesa. Questo cosa vuol dire? Che poiché soprattutto le rate normalmente scadono alla fine del mese, la rata che scadrebbe domani effettivamente non è sospesa, quindi per questi non vale nessuna sospensione, così come le rateizzazioni ad esempio derivanti dalle adesioni agli accertamenti, anche queste non sono state sospese, poi c'è stata una dimenticanza piuttosto che voluta, di fatto non sono sospese. Non sappiamo dirlo. Allora ci torniamo tra qualche istante, perché adesso diamo le informazioni sulla viabilità. Ne approfitto per dire, alcuni ci chiedono per il bollo auto. Il bollo auto è un'imposta regionale, quindi bisogna pazientemente consultare il sito della regione per vedere che cosa è stato disposto. Alcune regioni, vi posso confermare, che hanno effettivamente disposto una sospensione. E adesso sguardo di Filippo Aureggi, molto truce, che mi dice: guarda che è il momento di mandare il traffico. Due di denari. Buongiorno carissimi, ma come mai alle Poste hanno accreditato la pensione prima e alle banche no? Facciamo A e B? Mettiamoci pure una C, va? Grazie. Sono momenti difficili per le scadenze, e infatti anche per le scadenze fiscali, appunto, come sta cercando di spiegarci Laura Ambrosi. Lei in realtà ci riesce benissimo, è il fisco proprio di suo che fa un po' di complicazioni, forse anche dove non se ne sentirebbe la necessità. Dottoressa Ambrosi, ci siamo lasciati parlando degli avvisi bonari, lei ci ha confermato sugli avvisi bonari, non è stata disposta sospensione, quindi gli avvisi bonari sono le lettere in cui l'Agenzia delle Entrate ci invita cortesemente a correggere la nostra dichiarazione, ma non è ancora una cartella esattoriale, quelli lì non sono stati sospesi. Quindi se scade qualcosa a fine mese, ohimè, va pagato. E per quanto riguarda invece le rottamazioni, perché erano in corso anche via via, diciamo nel mondo di prima, quello prima del coronavirus, stavamo facendo anche tutte le varie rottamazioni, molti di noi stavano ricorrendo alle rottamazioni lì. Che cos'è stato disposto? Sì, anche lì hanno, attraverso le FAQ alle quali ha risposto Agenzia delle Entrate e Riscossione, le hanno rinviate, quindi diciamo il pagamento l'hanno sospeso fino al 31 di maggio e pertanto il pagamento dovrà essere fatto entro fine giugno in un'unica soluzione. Ecco, in un'unica soluzione, però se parlavamo di rate, cioè recupero tutte le rate entro fine giugno? No, le rate non pagate. Ah, ok. Scusi, perché questo tra l'altro vale anche per quanto riguarda le rateizzazioni sulle cartelle di pagamento. Cioè, immaginiamo che io avessi già in corso una rateizzazione su una cartella, quindi avevo già ottenuto la rateizzazione, avevo già iniziato a pagare le rate, sono rate mensili, quindi può essere che in questo periodo, da marzo al 31 di maggio, io abbia le rate in scadenza. Queste rate sono state, allora, le rate espressamente no, ma tutti i debiti, tutti i pagamenti derivanti dalle iscrizioni a ruolo, quindi dalle cartelle di pagamento, sono sospesi fino al 31 di maggio e sono stati rinviati, il pagamento è stato rinviato al 30 di giugno. Questo cosa vuol dire? Che le rate che avevo in corso dovranno essere pagate, tutte quelle non pagate in questo periodo di sospensione, al 30 di giugno, quindi in un'unica soluzione, e poi andrò avanti con il mio piano di rateizzazione. Il problema, in realtà, per come è formulata la norma, riguarda le cartelle in senso più generale, cioè la cartella ricevuta più di recente, i cui termini per il pagamento scadono tra l'8 marzo e il 31 di maggio, ha qualche difficoltà in più. Perché? Perché il legislatore per questo ha previsto sì la sospensione, quindi il relativo pagamento è stato in un qualche modo rinviato al 30 di giugno, però purtroppo è precisato in un'unica soluzione. No. Questa sembra un'incongruenza, perché normalmente, quindi non in una situazione di emergenza sanitaria, le cartelle prevedono la possibilità di richiedere la rateizzazione. Quindi io in una situazione normale, mi arriva la cartella, prima di pagarla posso chiedere la rateizzazione. Chiedo di pagare a rate, però invece in questo caso è stato previsto lo spostamento in avanti, ma non di poterlo rateizzare. Però, esatto, però forse si può lo stesso. L'Agenzia delle Entrate, sì, perché l'Agenzia delle Entrate e Riscossione è probabilmente accortasi di questa incongruenza, mettiamola giù così, vista la situazione di difficoltà e la finalità del decreto, ha risposto ad una FAC precisando che se io nelle more, quindi da adesso fino al 30 giugno, presento la mia richiesta di rateizzazione, nonostante gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione siano chiusi, verificheranno e valuteranno lo stesso le richieste di rateizzazione, in modo che se da qui al 30 giugno mi viene concessa, io al 30 giugno, quando quindi finisce il periodo di sospensione, posso iniziare a pagare la cartella con le relative rate che ho ottenuto in questo periodo. Quindi comunque sarà possibile in questo periodo, ovviamente sfruttando i canali telematici, presentare la richiesta di rateizzazione. Grazie, dottoressa Ambrosi. Debora? Allora, no, stavo riflettendo sulla situazione inedita che viviamo in questo momento e che sembra veramente aver raso al suolo la nostra vita precedente. Tutto questo è successo in pochissime settimane. Però, dottoressa Ambrosi, è anche possibile, anche se non ci sembra in questa fase, che esista una platea di contribuenti e di cittadine che è ancora in grado di rispettare i versamenti in corso, le rateizzazioni in corso. Non ci dobbiamo dimenticare che viviamo una condizione estremamente problematica e forse anche drammatica per molte persone, molte partite IVA, molti lavoratori, ma esiste ancora una piccola fetta in grado di rispettare gli impegni pregressi. È così? Oppure lei suggerisce anche a coloro che vivono una condizione di sostanziale normalità di approfittare di tutta questa possibilità di interrompere versamenti, scadenze e quant'altro? Allora, a mio avviso non esiste una regola da seguire o meno. La sospensione, per quello che è possibile, per quello che è previsto, è diciamo in via automatica, quindi non serve presentare una richiesta. Questo cosa vuol dire? Che se io posso e decido di pagare, non avrò un premio perché l'ho fatto, ma non avrò nessun adempimento di conseguenza, così come chi decide di non pagare ciò che è sospeso non avrà nessun adempimento da fare. È sufficiente rispettare le attuali nuove scadenze, quindi nell'ipotesi che abbiamo detto prima della cartella di pagamento, al 30 giugno dovrò pagare il mio debito. Quindi in linea di massima non esiste la regola, cioè quindi a mio avviso non si può dire se ce la fai paga, perché tanto non è che ha un beneficio o ulteriori adempimenti per sospendere. Diciamo che ognuno è giusto che si regoli in base alle proprie risorse. È chiaro che tutto ciò che viene rinviato allo stato attuale, dato che non è annullato ma semplicemente rinviato, prima o dopo dovrà essere pagato. Quindi chi ha oggi la disponibilità, magari anche per un discorso di gestione delle risorse, forse se lo riuscisse a pagare si evita poi di trovarselo in futuro, ecco. Quantomeno allo stato attuale, visto che non hanno annullato il debito, l'hanno semplicemente rinviato. Cioè lei dice, dottoressa Ambrosi, c'è una solidarietà, uno può sentire giustamente e nobilmente questa necessità di essere solidale se è nella condizione di onorare i vari impegni, perché non farlo, insomma, e questo per un principio di solidarietà, ma c'è anche, lei dice, un senso di pianificazione complessiva, pianificazione finanziaria, perché se poi mi ritrovo a dover fare un'estate di pagamenti che comincia il 30 giugno con una sorta di recupero di tutti i pagamenti che mi sono stati sospesi, insomma, poi diventa anche difficile sopportarla, visto che veniamo da settimane di riduzione comunque dei guadagni, per qualcuno addirittura azzeramento di guadagni. Sì, anche perché se prendiamo l'ipotesi dell'IVA, adesso è vero che non si può generalizzare, però facendo un discorso che per quantomeno per qualcuno potrebbe valere, l'IVA che scadeva il 16 marzo di fatto derivava dall'attività di febbraio, e nel mese di febbraio è vero che era già iniziata lo stato di emergenza, però non era così sentito e così drammatica la situazione come lo è stato poi in realtà nel mese di maggio, di marzo. Di marzo, certo. Quindi questo cosa vuol dire? Che la mia IVA scadente il 16 marzo, che è quella che ad oggi è stata rinviata, deriva in realtà da un lavoro che ho effettuato più o meno. Sarà poi ad aprile il problema, forse legato anche a contributi e dipendenti, ritenute dipendenti, perché effettivamente nel mese di marzo c'è stato il blocco più o meno totale delle attività conseguenti alle chiusure e tutto quello che noi sappiamo. Quindi ecco, forse rinviare eccessivamente per chi ha la disponibilità potrebbe sicuramente creare, come dicevamo prima, lo stato di mi trovo a fare l'estate pagando rate. Poi ripeto, ognuno è giusto che faccia le proprie considerazioni in base alla situazione. Deborah, ti posso leggere un messaggio arrivato su WhatsApp, proprio per quello che suggerivi tu. Dice: ciao Deborah, siamo un piccolo studio di comunicazione. Ci farebbe comodo tenerci in cassa i vari adempimenti, ma nel nostro piccolo facciamo lo sforzo per pagare, anche se aumenterà il senso di incertezza. Ma a tutto perché se noi non paghiamo, chi manterrà i nostri medici? Questo mi sembra una, come dire, una risposta nobile a quello che tu suggerivi. Sai Deborah, volevo sollecitare il dottore Sambrosio su un'ultima cosa, abbiamo un paio di minuti. Abbiamo letto sui giornali, abbiamo sentito alla radio, ci sono possibili ulteriori sospensioni, ulteriori cose. Allora, fatta questa premessa, non è ancora stato detto niente, non c'è ancora niente di pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma dove potrebbero ancora venirci incontro, dottoressa Ambrosi, ad esempio i tributi locali, mi pare? Sì, e poi sicuramente, come abbiamo detto, gli avvisi bonari. Sì. Sarebbe il caso di disciplinare, a mio avviso, in modo più specifico gli avvisi di accertamento, perché allo stato attuale non è prevista un'espressa sospensione del pagamento di questi atti, se non attraverso il rinvio della sospensione che hanno fatto in via generalizzata dei procedimenti giudiziari. Cioè, quindi se io devo impugnare l'avviso d'accertamento ho dei termini che sono stati sospesi. Tra l'altro qui c'è un'incongruenza della norma che speriamo che in qualche modo sistemino in sede di conversione, perché tutti i termini di contenzioso dell'Agenzia delle Entrate sono sospesi fino al 31 di maggio, a differenza quelli per i contribuenti fino al 15 aprile. Questo adesso, a prescindere da tutte le considerazioni che potremmo fare di ordine sociale, che potrebbero lasciare il tempo che trovano, ma purtroppo ha delle conseguenze in senso concreto, perché lo stesso atto, ad esempio una sentenza, potrebbe avere dei termini di impugnazione differenti tra me e l'Agenzia delle Entrate, quando siamo le stesse parti di un unico processo. Ecco, cioè, sono incongruenze che obiettivamente dovrebbero essere sistemate, non solo per rendere tutto più omogeneo e uniforme, ma anche per rendere più fruibile il decreto in sé, data la sua finalità. Anche perché purtroppo in questa situazione la cosa che lascia forse, diciamo così, un po' di amaro in bocca è che obiettivamente con tre parole si poteva fare tutto quello che hanno fatto in quasi 100 pagine di decreto. Ecco, mettiamola giù così, nel senso che era sufficiente sospendere, così come funziona per la pausa estiva, i procedimenti civili, penali e tributari, piuttosto che altre forme di processo, e sospendere tutti i pagamenti in via generalizzata, perché allo stato attuale, ad esempio, prima abbiamo fatto l'elenco, sono sospese le ritenute dei dipendenti, ma non le ritenute dei professionisti. purtroppo anche la ritenuta del professionista la deve preparare magari un commercialista il cui studio è chiuso e quindi il cliente non può pagare. Cioè, oppure, esatto, oppure dovrebbe vedersi col commercialista, ma la comunicazione in questo periodo, insomma, anche telefono, email, eccetera, non è semplicissima su queste cose. Grazie alla dottoressa Laura Ambrosi. Debora, a te la chiusura della puntata. L'ultima cosa, a proposito di incongruenze, sono andata a caccia sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze del modulo per poter accedere al fondo di solidarietà anche per i liberi professionisti. Ovviamente sul sito del Ministero non trovavo assolutamente il modulo aggiornato, l'ho trovato sul sito della CONSAP, che è l'organismo incaricato di gestire tutto ciò, e per chi non lo trova chiedetelo a noi perché ve lo inviamo il PDF, quindi siamo in grado di spedirvelo. Guarda un po' oggi che mi faccio da consulente anche per conto del Ministero. Mauro, a domani. A domani, Deborah.